Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una puntata nella quale, come sempre, toccheremo parecchi temi, a partire dal maltempo nelle Marche. Cercheremo di fare un punto, così come ci siamo occupati di quello che è successo con l'alluvione in Veneto. Ci occuperemo oggi di quel che sta succedendo nelle Marche dal punto di vista economico e vedremo di fare un punto dell'impatto che sta avendo, tra l'altro con una modifica che c'è stata per quanto riguarda le leggi sull'emergenza, con il decreto mille proroghe, che forse qualche problema tanto alla regione quanto agli imprenditori lo potrebbe creare. Vedremo di capire se questo è vero. Toccheremo, e questa volta senza approfondire particolarmente, ma lo toccheremo naturalmente, il tema del petrolio e della crescita del prezzo del greggio. Tra l'altro, come già sentivate nel giornale radio, ci sono delle dichiarazioni in merito anche del leader libico Muammar Gheddafi. Torneremo, a proposito di energia, sul tema del fotovoltaico. Come sapete, ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, domani c'è un consiglio dei ministri decisivo che dovrebbe definire il decreto per quel che riguarda appunto gli incentivi per il fotovoltaico. Ci occuperemo ovviamente di mercati che sono decisamente migliorati rispetto all'apertura. La mattinata si era chiusa sostanzialmente con un calo dell'1%, sono ancora negative gran parte delle piazze finanziarie europee, giù Francoforte dello 0,43, Parigi dello 0,45, mentre New York guadagna lo 0,41% sul Dow Jones. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,46, il FTSE O'Share lo 0,40%, tutto questo sulla scorta della bancari. E non solo, c'è anche una Telecom Italia oggi che va particolarmente bene, un più 2,78%. L'euro quota 1,38,69 contro dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve di questa giornata. La prima l'avete anche in realtà già sentita nel giornale radio, il nuovo record storico per l'oro, che si conferma un bene rifugio per eccellenza nei momenti di grandi tensioni. Un'oncia del metallo viene scambiata a 1437,70 dollari al barile, nuovo massimo assoluto, livello più alto dal febbraio dell'80. E a proposito di materie prime, veniamo a quella che ci interessa di più, ossia il petrolio, che ha aperto a New York oltre i 101 dollari al barile, viaggia sopra i 100 in questo momento, sulla scorta del calo delle scorte, scusate il gioco di parole, americane. Sono scese i 364.000 barili contro il milione di barili di rialzo che si attendevano gli analisti. Naturalmente tutto questo ha un impatto sul prezzo della benzina, ha un impatto, diciamo così, insomma, comunque sia, cresce il prezzo della benzina. Allora, questa mattina Eni ha messo mano ai listini, ha applicato un nuovo rialzo di 0,5 centesimi al litro sulla benzina e di 0,8 sul gasolio, arrivando a 1,546 per la verde e 1,437 per il diesel. Rialzo anche per esso, più 0,7 centesimi al litro a 1,544 per la benzina. Come sapete, ci sono anche differenze regionali. A Napoli e in generale in Campania i prezzi consigliati in modalità servito superano quota 1,6 al litro. Il prezzo più basso si registra invece in Veneto e in alcune grandi città, Roma, Milano, Torino, a 1,53,4. Cosa dice l'Unione Petrolifera? Che i prezzi dei carburanti praticati sulla rete di distribuzione italiana sono assolutamente in linea con gli andamenti dei mercati internazionali e coerenti con quanto accaduto nel 2008, contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni dei consumatori. Cosa diciamo noi? Che nel 2008 però, quando i prezzi della benzina erano più o meno allo stesso livello, il petrolio valeva $149 al barile, ossia 94 euro con il cambio di allora a 1,58. Oggi il petrolio vale $100 al barile, ossia 72 euro con cambio a 1,38. Insomma, sono più o meno 22 euro al barile di meno, quindi forse qualche margine ci sarebbe. Naturalmente arriva una nuova previsione di affari al ribasso per l'IATA, l'associazione che raccoglie le compagnie aeree. Ha abbassato la previsione per il 2011 dell'industria delle compagnie aeree, previsione di ricavi naturalmente a $8,6 miliardi dai 9,1 stimati nel dicembre scorso. Si tratta di un calo del 46% dell'utile netto rispetto ai 16 miliardi guadagnati dal settore nel 2010. Naturalmente su questo c'è un impatto del prezzo del greggio. Dice il ministro alle attività produttive Paolo Romani che su tutto questo naturalmente pesa anche la speculazione sul prezzo del barile, naturalmente non su quello della benzina, con il Brent che viaggia a 110-112 circa. Anche di questo abbiamo parlato ieri, ne ha parlato Sebastiano Barisoni, lo avete sentito con Franco Bruni. Insomma, si discuteva proprio del tema della speculazione, che con il costo del denaro a questo livello, insomma, naviga bene. Dicevamo delle parole di Muammar Gheddafi dal lato del petrolio. Dice che la produzione in Libia è scesa a livelli più bassi a causa della partenza dei dipendenti delle società petrolifere straniere che operano nel paese dopo l'inizio della rivolta. E poi si è rivolto direttamente all'Italia. Dice, ha chiesto all'Italia se ha lasciato le installazioni petrolifere in Libia per paura del governo, dei servizi segreti o dei terroristi. E ha aggiunto, se gli americani non faranno ritorno alle loro aziende petrolifere, le consegnerò ai russi e ai cinesi. Aggiunge Gheddafi, i campi petroliferi sono sicuri così come i terminal, ma sono le compagnie petrolifere straniere che hanno paura. Veniamo ad altre notizie dopo aver dato un quadro dal lato del prezzo del greggio. Standard & Poor's vede il rischio di un ulteriore taglio del rating per Grecia e Portogallo. In due rapporti che sono stati diffusi in nottata, l'agenzia conferma l'outlook negativo per i due paesi e ritiene possibili altri downgrade in base a quanto verrà deciso a marzo dall'Unione Europea in merito al meccanismo del fondo Salva Stati. La Grecia ha una BB+ con prospettive negative e il Portogallo una A meno, anche qua con prospettive negative. E però da segnalare che è andata bene l'asta portoghese di oggi, ha collocato titoli di Stato per un totale di 1 miliardo di euro, l'ammontare massimo previsto, e i tassi sono stati sostanzialmente stabili. Ancora, sempre dall'Europa e sempre paesi in forti difficoltà economiche. Continua a crescere la disoccupazione con un aumento dell'1,6% in febbraio rispetto al mese precedente. I disoccupati sono ora 4,3 milioni nel paese, la cifra più alta da 15 anni, e sono aumentati 68.000 unità. L'incremento in un anno è stato del 4,08%. Preoccupante, così come da noi, anche la situazione dei giovani in Spagna, perché in febbraio l'aumento del numero di disoccupati fra chi ha meno di 25 anni è stato del 5%. Veniamo ai dati diffusi oggi da Equitalia sul fisco. Sono stati recuperati 9 miliardi dagli evasori. Questi dati, nel 2010 la riscossione dei tributi è salita ad 8,9 miliardi, più 15%, e il 20% è stato recuperato dai grandi debitori, da Lombardia, Lazio e Campania, i maggiori incassi. Questo è quello che comunica Equitalia, un incremento complessivo del 15% rispetto al 2009, più 27% sul 2008. Sono stati diffusi poco fa i dati del centro studi di Confindustria sulla produzione industriale. Prosegue il recupero, un aumento della produzione dello 0,3% a febbraio su gennaio, quando si era avuto una variazione di più 0,7% su dicembre. Nel primo trimestre dell'anno si segnala un più 1,5% dopo il meno 0,2% del quarto trimestre del 2010. A proposito di ripresa, c'è stato un annuncio importante oggi dalla Regione Lombardia e come sempre qua stiamo a vedere, aspettiamo i fatti e però ve lo riferiamo. È di quasi 1 miliardo di euro lo stanziamento deciso oggi dalla Giunta Regionale Lombarda per realizzare quelle che sono state definite le 12 sferzate all'economia. Di cosa si parla? Rafforzamento delle garanzie al credito, sostegno allo start-up di nuove imprese, finanziamento di reti d'impresa, sostegno all'attrattività commerciale e turistica, contributo al lavoro ai disoccupati, sostegno alla ricerca, alla competitività, alla green economy, alla banda larga e l'anticipo ai fondi PAC per l'agricoltura. E poi c'è la vicenda Cirio, questa la approfondiremo subito dopo il giornale radio delle 18. La condanna di Sergio Cragnotti a 15 anni di reclusione, di Cesare Geronzi a 8 anni è stata la richiesta della pubblica accusa al processo per il crack. In totale l'accusa ha chiesto la condanna di 31 imputati per un totale di 221 anni di carcere. Per tutti è stata sollecitata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni. Tra le altre cose sono state chieste le condanne per Fiorani e per i familiari di Cragnotti. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia la situazione del maltempo nelle Marche. Come già vi abbiamo raccontato nel corso del nostro giornale radio, la Regione Marche chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale per un'ondata di maltempo che ha travolto il territorio. In 24 ore sono caduti 200 mm d'acqua. Qualche altro dettaglio tra poco. Intanto saluto Luciano Vizioli, direttore di Confindustria Ascoli Piceno, che è una delle zone più colpite. Buonasera Vizioli. Buonasera. Piove ancora? No. Per fortuna no. Per fortuna ha smesso. Allora, intanto, diciamo che dalla vostra zona arriva la notizia che è stato sgomberato lo stabilimento della Barilla, no? 50 operai sono rimasti intrappolati dall'acqua senza l'energia elettrica. Poi, appunto, la zona più colpita è esattamente la vostra. Ci sono stati grandi, naturalmente, disagi nei trasporti. Ad Ancona, tra l'altro, è stato chiuso l'aeroporto. Una frana ha interrotto una ferrovia regionale. Ci sono stati allagamenti sull'autostrada A14. Allora, io so che nelle prossime ore, in realtà molto più a breve, se non sbaglio verso le 18, voi avrete un incontro con il prefetto per fare il punto della situazione. Noi le chiediamo di anticiparci un po' quel che avete visto, quel che siete riusciti a mappare, consenta il brutto termine. No, certo. Ma guardi, la situazione è sotto controllo, ma soltanto parzialmente, nel senso che una esatta valutazione dei danni e della dimensione del disagio procurato dalle esondazioni e dal maltempo si potrà avere solo tra qualche giorno. Noi abbiamo cercato di contattare tutte le aziende potenzialmente interessate, ma abbiamo avuto contatti solo con alcune di esse, perché molte non hanno potuto neanche fare ingresso nelle loro fabbriche o comunque hanno energia elettrica in blackout, per cui non abbiamo possibilità di contattare. Alla verifica solo parziale risultano già una cinquantina di aziende che hanno dovuto interrompere l'attività. 50 sono tante. Tra l'altro ricordiamo che la zona tra Ascoli Piceno, Fermo, è una zona industrialmente importante per questo paese, perché c'è il calzaturiero, tra l'altro, in uno dei paesi più colpiti, pur senza danni. Per darvi un'idea, c'è la fabbrica della Hogan di Diego della Valle, della Tozzi, insomma. Quindi questo per dare anche un'idea ai nostri ascoltatori, come dire, dell'importanza industriale della zona. Vi siete già fatti un'idea nell'ordine delle decine di milioni, nell'ordine delle centinaia? Ma guardi, le posso solo dire che sempre ad un conteggio molto parziale, perché deve considerare che poi l'esatta valutazione del danno si avrà solo quando, una volta sgombrati gli stabilimenti da fango e acqua, le posso dire che in alcune realtà già si parla di svariate milioni di euro di danni, solo in alcune realtà. Quindi nel totale prevediamo un danno piuttosto ingente, insomma. Ok, quindi se in alcune realtà sono alcuni milioni, presumiamo che insomma la cifra quantomeno superi 100, insomma, ecco, no? Beh, è difficile fare una previsione, ma ecco, con una grande approssimazione direi proprio di sì. Perfetto, una grande approssimazione, probabilmente al ribasso, perché forse ci sarà qualcosina di più. Qualche altro dato? Allora, la Coldiretti ha detto che ci sono nelle coltivazioni danni per 10 milioni di euro. Sono state interrotte 10 linee dell'Enel e ci sono guasti idrici, perché poi anche questi sono i problemi. Insomma, noi stiamo parlando delle aziende, poi le aziende devono lavorare con l'energia elettrica, e se le linee elettriche sono interrotte, naturalmente le aziende non... Ma non solo, mi consente. C'è un altro problema, è quello di raggiungibilità degli stabilimenti anche, perché non tutte le località poi hanno strade libere, per cui c'è chi non può lavorare per mancanza di energia elettrica, chi non può lavorare perché non è praticabile lo stabilimento, chi non può lavorare perché non ha tutta la forza lavoro disponibile in questo momento. È un fatto che probabilmente riguarderà solo i primi giorni, per fortuna, almeno questa terza causale. Naturalmente, poi bisognerà vedere, come ovvio, la condizione dei macchinari, perché ovviamente è la prima cosa. Allora, i senatori delle Marche hanno chiesto subito, naturalmente, del denaro. Si segnala da altre parti che lo fa un deputato dell'UDC, Amedeo Ciccanti. È una tassa sulla quale si è discusso, una questione sulla quale si è discusso molto con l'approvazione del milleproroghe, che è la famosa tassa sulla disgrazia che è stata prevista dal decreto milleproroghe, insomma, per far fronte ai danni provocati dalle alluvioni o da eventi di questo tipo, come terremoti. La regione dovrà far ricorso a risorse proprie, e se questo non bastasse, l'aumento dei tributi regionali, compresa la benzina per autotrazione. Diciamo che se è veramente così, siete messi male, Vizzioli, no? Sì, ma io credo che il maggior sforzo dovranno purtroppo farlo le imprese, che dovranno, in un momento particolare in cui probabilmente parecchie intravedevano la fine del tunnel, questa tegola purtroppo li obbligherà magari a distrarre parte dei fondi che sarebbero stati destinati agli investimenti e al ripristino degli impianti. E questo forse è l'aspetto più, purtroppo, più problematico. E quello che immagino vi preoccupa di più. Sì, certo. Certamente. Bene, questo il quadro, mi diceva, quindi 50 all'incirca le aziende interessate, ma come ci diceva, ce ne sono molte che voi non siete proprio riusciti a contattare. Sì, che non abbiamo avuto proprio la possibilità di contattare, per cui un'esatta dimensione noi potremmo averla da qui a un 4-5 giorni, ritengo. Però se al primo contatto una cinquantina ci ha denunciato questa difficoltà di continuare la produzione, io penso purtroppo che questo dato salirà di parecchio. Quanti sono i vostri associati? 550. E quanti del settore del quale discutevamo, del calzaturiero? No, del calzaturiero molto pochi, perché il calzaturiero è concentrato sulla zona della provincia di Fermo piuttosto che sulla zona di Ascoli Piceno. Benissimo, allora magari nelle prossime ore cercheremo di contattare anche gli industriali di Fermo e cercheremo di capire anche da loro com'è la situazione. Io intanto, nel frattempo, ringrazio Luciano Vizzioli, direttore di Confindustria di Ascoli Piceno, per essere stato con noi e per averci, insomma, concesso questa intervista in un momento abbastanza complicato. Poi lei, che ha un ruolo centrale all'interno dell'organizzazione, immagino che sia preso da parecchie cose. Grazie e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Questo è il quadro dalle Marche, vedremo che cosa succederà e vedremo anche di capire l'effettività di questa norma del decreto mille proroghe che ci sembra particolarmente importante. Adesso c'è una breve pausa e poi parleremo ovviamente di mercati. Le 17:34 minuti, qualche sms che ci scrivete, chiedo perdono se ho detto, se parlando dell'oro ho detto un tot al barile, naturalmente parlavo di once, non parlavo di barili, insomma è chiaramente un lapsus perché il petrolio ci sta dominando in questi periodi, non facciamo targhe alterne come in Rai a Radio Com, almeno qualcuno vuole fare in Rai a Radio 24, questo per rispondere all'ascoltatore che ci chiede di Sebastiano Barisoni. Allora, grazie all'ottima Barbara Bianchi, siamo riusciti a raggiungere subito Giuseppe Tosi, che è direttore generale di Confindustria Fermo. Buonasera Tosi. Sì, buonasera a voi. Allora, naturalmente quello che vogliamo capire da lei è se vi siete fatti un'idea di massima dei danni, insomma, se riesce a darci un quadro della situazione. Ma guardi, purtroppo un quadro generale completo non resta facile farlo. La situazione naturalmente è di una gravità straordinaria, in quanto ci sono diverse infrastrutture, soprattutto rovinate, ci sono fiumi straripati, ci sono problemi soprattutto di viabilità. Per quanto riguarda dal lato delle aziende evacuate al momento non mi risultano. Mi risultano, ecco, queste difficoltà che le dicevo prima, soprattutto per le vie di comunicazione, e adesso da poco risulta addirittura anche un acquedotto a Calderette Vete che è crollato, ecco il ponte. Quindi diciamo dalla vostra parte, a parte di Fermo, grandi difficoltà per le aziende non ce ne sono al momento, almeno non avete ricevuto segnalazioni? No, segnalazioni di evacuazioni, di fermo aziendale non ne abbiamo ricevute al momento, torno a ripetere, e difficoltà andando in giro ce ne sono molte, ecco, molte. I danni sono molti, ecco. Perfetto, quindi da questo punto di vista sembra che la provincia più colpita sia decisamente Ascoli Piceno, da quel che abbiamo sentito. È la provincia di Fermo, sì, sì. Sì. Ma voi avete contattato qualche azienda per sincerarvi della situazione? Noi stiamo telefonando in questi momenti proprio, in questi momenti, anzi io sto aspettando anche il presidente per fare il punto della situazione, e abbiamo telefonato ad alcune aziende di riferimento nelle zone industriali più importanti, ecco, tipo Monte Granaro, Monte Urano, Porto Sant'Elpidio, ecco. E ci sono state manifestate queste difficoltà di cui le parlavo prima. Perfetto, solo quel tipo di difficoltà, quindi allagamenti all'interno delle fabbriche, quindi problemi non di macchinari, eccetera. Non ci sono stati segnalati, può darsi che possano emergere, qui è la situazione in continua evoluzione, come si dice. Naturalmente, e ci sarete anche voi alla riunione in prefettura ad Ascoli, suppongo, più tardi. Credo proprio di sì. Benissimo, magari ci aggiorneremo più tardi. Grazie nel frattempo a Giuseppe Tosi, direttore di Confindustria Fermo. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Allora, tra poco parleremo anche degli energetici, naturalmente, quando sarà il momento di parlare dei mercati. Prima però, a proposito di aziende in difficoltà, parliamo delle imprese italiane in Libia. A fare il punto sulla situazione è stato questa mattina il ministro dell'Interno Roberto Maroni durante un'audizione alle commissioni congiunte affari istituzionali affari esteri di Camera e Senato. Sentiamo. La tutela delle società italiane. Abbiamo proprio ieri sera valutato, con la presenza anche del Ministro dello Sviluppo Economico Romani, la situazione delle società italiane, che è attentamente tenuta sotto controllo. Come ho detto prima, la Libia è sostanzialmente divisa in due zone. La zona a ovest, Tripoli, lì non ci risultano particolari problemi, addirittura quasi tutte le società italiane continuano le attività lì, non ci sono rischi particolari. Nella zona est invece i problemi ci sono, ma la situazione è seguita attentamente in diretto contatto con le principali società. Ma il ministro Maroni ha parlato anche di altro, del famoso tema delle partecipazioni azionarie della Libia in gruppi e società italiane. Ricordiamo una per tutte Unicredit, ma naturalmente anche la Juventus, anche Finmeccanica. Dunque, sentiamo che cosa ha detto Maroni. La Libia ha beni in Italia, che sono principalmente partecipazioni azionarie in società, in gruppi. Ne stavamo discutendo ieri sera, non penso che il governo possa intervenire a bloccare le partecipazioni azionarie. So che ci sono, non compete a me naturalmente, so che ci sono valutazioni in corso perché altri paesi hanno preso iniziative di congelamento, ma un conto è congelare i conti correnti, i depositi bancari, qui siamo in presenza di partecipazioni azionarie e penso che la Consob debba dire la sua in merito. Sì, anche se naturalmente il governo inglese ha deciso di bloccare, di congelare la partecipazione di Gheddafi, o meglio della Libia, nel gruppo Pearson. Bene, siamo quel che ha detto Maroni, ci porta naturalmente ai mercati. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Avevamo iniziato veramente maluccio la giornata, come l'abbiamo conclusa? L'abbiamo conclusa abbastanza bene. Piazza Affari nel pomeriggio ha tentato il recupero, in verità gli indici sono arrivati a segnare anche dei rialzi che rispetto alla mattinata erano abbastanza vivaci, poi ha rallentato il passo proprio sul finale, il FTSE All Share e il FTSE MIB hanno chiuso praticamente sulla parità. Piazza Affari ha comunque fatto meglio rispetto alle altre borse europee che hanno tutte chiuso più o meno in calo, questo grazie soprattutto al recupero di alcune blue chips e anche al tentativo di recupero delle azioni bancarie. Allora, vedo che tra l'altro il titolo migliore sul listino in chiusura, con un discreto balzo tra l'altro, è stata Enel Green Power, Eleonora, più 2,83. Esatto, infatti più 2,83, i titoli avevano frenato nelle scorse sedute ma hanno ripreso a salire, c'è molta fiducia nei confronti di questa matricola, soprattutto magari in questi momenti di volatilità del mercato. Poi ha fatto molto bene anche Telecom Italia, più 2,4%, nel corso della seduta è arrivata a guadagnare oltre il 3%, diciamo che si sta assistendo ad una rotazione settoriale che fa ben sperare peraltro anche per i mercati che evidentemente, nonostante la situazione nel Maghreb e anche nel Medio Oriente a questo punto sia preoccupante, sembrano non avere troppa voglia di scendere, si assiste piuttosto a una rotazione settoriale, si vendono titoli considerati più ciclici come Fiat o come Buzzi, mentre si acquistano azioni che magari erano state un po' dimenticate nei mesi scorsi come Telecom Italia. Forte anche dei conti 2010 chiusi, ricordiamo, con un utile in crescita del 97%. Allora, bene il risparmio gestito, Mediolanum in guadagno dell'1,91%, Azimut dell'1,36%, positiva ST Microelectronics un più 1,73%, complessivamente bene mi sembra, Eleonora, oggi bancari, anche se non tutti alla fine, ci avevano fatto sperare qualcosa di meglio. I bancari hanno tentato il recupero nel corso del pomeriggio, alcuni appunto sono riusciti a chiudere in positivo come Unicredit più 1,22%, alcuni sono andati su ma poi hanno ripiegato proprio sul finale, quindi UBI ha perso lo 0,21%, anche Intesa San Paolo ha guadagnato solo un frazionale 0,08%, ed ancora MPS ha lasciato sul parterre lo 0,94%, il Banco Popolare lo 0,65%, tra l'altro proprio oggi il Sole 24 Ore ha scritto che il Banco Popolare sembra che sia sul punto di mettere in vendita gli immobili di Italease, operazione dalla quale conta di ricavare circa 1 miliardo di euro. Questo è il quadro dal lato dei bancari. Invece ci parlai dei titoli ciclici e poi di quelli che risentono del prezzo del greggio, quindi ti chiederei di soffermarti un attimo soprattutto sul settore auto, una Fiat meno 0,83%, ma in realtà ha fatto male tutto il settore in Europa, no? Sì, esatto, è andato male tutto il comparto europeo dell'auto, il sottoindice ha perso l'1,73%, Fiat ha fatto male, ricordiamo che da inizio anno a questo punto Fiat sta sotto i livelli appunto della prima quotazione, che era di 7 euro, ha chiuso a 6,58, un 6% al di sotto delle quotazioni del primo giorno di Fiat SPA, scorporata cioè da Fiat Industrial. Certo, il rialzo del greggio fa paura in quanto si teme che pesi sulla ripresa dell'economia, del resto ieri è stato lo stesso numero uno della Fed, Ben Bernanke, a lanciare questo monito, quindi è per questo che si vanno a colpire soprattutto i titoli più legati al ciclo economico, in primis quelli delle auto, ma anche quelli ad esempio delle costruzioni, Buzzi Unicem ha lasciato sul parterre il 2,23%. Allora, ci chiede un ascoltatore un po' ossessivamente, a dir la verità, come mai gli energetici sono così depressi. Devo dire la verità, a guardare il mercato oggi non è che siano poi particolarmente depressi, si considera che nel Green Power ha guadagnato il 2,83% e non ha fatto malissimo nemmeno Eni, un calo dello 0,17% se si considera quello che ha detto Gheddafi giusto mezz'ora fa, ammesso che Gheddafi conti ancora qualcosa, insomma, cioè, non dico da festeggiare, ma quasi. Qualche parola sugli energetici subito dopo la viabilità, Eleonora. 17, 46 minuti e 20 secondi, brevemente, Eleonora Micheli, gli energetici. Beh, forse c'è poco da dire, nel senso che con tutto quel che sta succedendo sul petrolio, la tensione è evidente, no? È vero che il petrolio sta salendo, e così come salgono anche i prezzi delle materie prime, l'oro ha oggi segnato un nuovo record. D'altra parte sono scesi sia i titoli petroliferi in Europa, hanno fatto meno 0,76%, sia quelli delle materie prime, meno 0,53%. È vero sì, infatti, che queste aziende beneficiano di un rialzo appunto del prodotto che vendono, ma sono strettamente legate anche al ciclo dell'economia. Se l'economia frena a causa appunto di una frenata, a causa del rialzo del prezzo del greggio, come stanno mettendo in evidenza le autorità mondiali, ricordiamo lo scorso fine settimana anche Draghi ha puntato l'indice su questo, ovviamente ne risentiranno in primis anche le aziende energetiche e delle materie prime. Ovviamente, brevissimamente, 20 secondi, Parmalat, Eleonora. Parmalat oggi è stata sotto i riflettori sulle ipotesi che i tre fondi che alla prossima assemblea dovrebbero presenteranno una prossima lista per il consiglio di amministrazione siano in verità in trattativa per cedere le proprie quote superiori al 15% all'Actalis. D'altra parte nel pomeriggio è arrivata la smentita, i fondi infatti non sono in trattativa con l'Actalis. Al termine della seduta le Parmalat hanno perso lo 0,44%. Ma di qui all'assemblea può darsi che registri un andamento molto volatile. Vedremo dunque che cosa succederà. Grazie nel frattempo ad Eleonora Micheli di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Buonasera, Eleonora. Buonasera a tutti. Chiedete di Snam Rete Gas? Sì, ha diffuso i conti, l'utile è salito 1,1 miliardi, dividendo a 0,23 euro, comunque in lieve calo, meno 0,31%. Abbiamo parlato di energia, dunque passiamo a parlare dell'altro argomento energetico di questi giorni, ossia all'opposto del petrolio, le rinnovabili. Domani il Consiglio dei Ministri, il lodo principale, come sapete, è quello degli incentivi al solare fotovoltaico, verrebbero tagliati a decorrere dal 1 gennaio 2014 al raggiungimento del limite fissato in 8.000 MW di potenza. Su questo fronte in realtà c'è stata una parziale schiarita, il Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ieri ha detto che non c'è nessun tetto di 8.000 MW, è solo un obiettivo che si è dato il nostro Paese, non è un obbligo e comunque su questo decreto si sta lavorando. Nel frattempo 14.000 cittadini in meno di tre giorni hanno scritto al Governo chiedendo di non chiudere l'esperienza delle rinnovabili in Italia. Noi torniamo a sentire l'industria del settore, ci colleghiamo con Marco Tecchio, amministratore e delegato di Elettronica Santerno. Buonasera. Buonasera a tutti e anche agli ascoltatori. Elettronica Santerno è leader italiano, è il leader tra le società di proprietà italiana negli inverter solari fotovoltaici. Che cosa sono gli inverter solari fotovoltaici? Sono il cuore di un sistema fotovoltaico, sono quelli che permettono di convertire di fatto l'energia solare nell'energia che usiamo tutti i giorni, ed è tra l'altro Elettronica Santerno tra le prime 5-6 al mondo, a stabilimenti in Italia, Germania, Polonia, Stati Uniti, Argentina, India e Cina. Allora, Tecchio, prima di tutto la sua posizione su questa vicenda. Noi del comparto industriale, come è ovvio che sia, abbiamo bisogno di un quadro normativo certo e stabile. Non c'è discussione sul fatto che gli incentivi per le rinnovabili abbiano una progressione a scendere, anche in funzione della riduzione dei costi di produzione dei componenti che vanno appunto a comporre gli impianti, ma abbiamo bisogno di uno scenario di medio e lungo periodo, perché chi produce beni prodotti con tecnologia ha bisogno di investire anche sul medio e lungo termine e ha bisogno di avere uno scenario che dia garanzia in questo senso, e questa è la nostra preoccupazione principale. Un'altra cosa molto importante è che l'industria italiana del fotovoltaico sta compiendo un grosso sforzo di internazionalizzazione per aprire i mercati prospetticamente più interessanti, che sono ovviamente quelli anche al di fuori del mercato comune europeo, ma per farlo ha bisogno di avere un mercato domestico ancora forte che sostenga lo sviluppo e che consenta a queste aziende di raggiungere le dimensioni critiche necessarie all'internazionalizzazione. Noi italiani siamo un po' in ritardo rispetto al mondo tedesco, che è partito 10 anni prima, ma stiamo direi recuperando bene posizioni a livello internazionale, ma come hanno avuto i nostri cugini tedeschi un mercato stabile per molti anni, abbiamo anche noi bisogno di avere un mercato domestico solido e certamente competitivo, ma sano da un punto quindi, di vista normativo. Quindi quel che lei sta dicendo non è una questione di riduzione degli incentivi, perché gli incentivi a un certo punto vanno ridotti, alla fine sono anche una sorta di droga per le aziende, una droga del mercato quantomeno, e però ci vuole un quadro normativo chiaro, quadro normativo che al momento non è chiaro per nulla. L'estensione fino al 2014 è qualcosa che secondo lei andrebbe bene, cioè è una cosa che vi permette di programmare, o avreste bisogno di una programmazione più lunga? L'industria ha bisogno di programmazioni più lunghe, perché le tecnologie coinvolte in particolare nel mondo dell'energia, ma in molti altri settori, sono tecnologie che hanno alle spalle programmi di sviluppo certamente pluriennali e di media e lunga durata, quindi l'orizzonte temporale è certamente più lungo. Ma quello che nello specifico è diventato un po' un problema è che il tetto di capacità installabile è certamente una cosa che diventa particolarmente delicata, perché non si ha neanche la certezza di quando ciò accada, e quindi veramente in termini temporali la visibilità è quasi nulla. Quindi questo tipo di situazioni vanno secondo noi evitate, proprio per consentire all'industria quegli spazi di manovra e di crescita che sono indispensabili per la competizione internazionale. Quindi, dovendo scegliere tra una data, ossia il 2014, e i famosi 8.000 megawatt, meglio la data del 2014, perché lei dice questi 8.000 megawatt è qualcosa di talmente vago, si possono raggiungere in un anno come in 10, che per l'industria, per carità. Sì, per l'industria, per il mondo della finanza, per i grandi investimenti, chiaramente è una soglia talmente vaga e indefinita che naturalmente comporta un effetto molto pesante sul mercato. Ma anche il 2014 di per sé non è una data particolarmente significativa. Gli impegni a livello internazionale che l'Italia, come tutti gli altri paesi, ha, traguardano almeno il 2020. E quello è un orizzonte sul quale si può cominciare a vedere l'autosostenibilità di questo tipo di tecnologie, che naturalmente procede a grandi passi, ma che ha ancora un percorso da fare. Autosostenibilità nello specifico vuol dire parity grid o condizioni analoghe che via via, mercato per mercato e situazione geografica per situazione geografica, si manifestano con il passare degli anni. Grazie a Marco Tecchio, amministratore delegato di Elettronica Santerno, per essere stato con noi, e buonasera. Grazie, buonasera. C'è da registrare di poco fa anche la dichiarazione del ministro Romani, del ministro allo sviluppo economico Paolo Romani. Stiamo lavorando ad un testo di decreto che ridisegni il sistema di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Resta confermato il nostro impegno, dice Romani, e però vanno eliminati sprechi, speculazioni e truffe. E a proposito sempre di energia, ci chiedete giustamente di Edison, di come è andata oggi. Un calo dell'1,34%, ultimo prezzo a 0,88. Che cosa è successo? C'è in ballo, come sapete, un maxi piano di riassetto che prevede la redistribuzione dell'azionariato. È una vicenda molto complessa, insomma, che coinvolge Delmi ed EF, che naturalmente non abbiamo né il tempo né la possibilità in questo momento di riassumere. Una notizia invece che riguarda il federalismo e che è arrivata poco fa dal ministro Calderoli, che ha assunto l'impegno di proporre al Consiglio dei Ministri un'iniziativa legislativa finalizzata alla proroga di 4 mesi del termine di scadenza della delega prevista per la legge 42 sul federalismo fiscale. La cosa, tra l'altro, è collegata con la vicenda delle rinnovabili, perché Forza Sud, i deputati di Forza Sud hanno detto si dia il via al DDL sulle rinnovabili oppure non ci sarà fiducia sul federalismo. Per il momento è tutto, adesso la linea al GR, noi ci ritroviamo subito dopo e ripartiremo da Cirio. Le 17, 7 minuti 52 secondi, di nuovo buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia. Ci chiedete al 349-238-6666 a proposito di rinnovabili, a proposito di fotovoltaico, se lo paghiamo noi nella bolletta. Sì, lo paghiamo noi, e se è o non è antieconomico. Francamente questa è una risposta che almeno che non ci sentiamo di dare, nel senso che naturalmente dipende dalle singole prospettive, insomma dipende se si è, se lo si installa oppure no, naturalmente. Per il sistema in generale, anche qua le posizioni sono molto diverse. Veniamo alla vicenda Cirio. Siamo a circa una decina di anni dal crack, 8 e mezzo. La controllata Cirio Finance Luxembourg dichiarò default su un bond da 150 milioni di euro. La bancarotta investì tutto il gruppo guidato da Sergio Cragnotti e colpì 35.000 risparmiatori che avevano in portafoglio titoli del gruppo per 1,1 miliardi di euro. Cosa è successo oggi? Che nel processo sono arrivate le richieste dell'accusa. Buonasera Domenico Lusi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Buonasera. Allora, le richieste dell'accusa, eccole. Condanna di Sergio Cragnotti a 15 anni di reclusione e di Cesare Geronsid a 8 anni. In tutto si è chiesta la condanna di 31 imputati per un totale di 221 anni di carcere e di una società. Allora, Domenico, io la prima domanda che ti faccio naturalmente è su quel che succede adesso, cioè quali sono i tempi di questo processo, appunto, che già arriva ad 8 anni e mezzo dal crack, e quindi già quasi ci eravamo scordati della vicenda Cirio. Naturalmente sto scherzando, perché è una vicenda che non si dimentica, però già ce ne eravamo quasi scordati. A questo punto la sentenza quando dovrebbe arrivare? La sentenza arriverà a maggio. Adesso l'udienza prosegue venerdì con le richieste di risarcimento danni da parte delle parti civili, e poi si andrà avanti con le arringhe dei difensori fino appunto a maggio, quando è prevista la sentenza. Questo dal lato dell'agenda del processo. Io ti chiedo, proprio perché l'evento è piuttosto lontano negli anni, naturalmente non nella testa di quei 35.000 risparmiatori dei quali parlavamo, però è abbastanza lontano negli anni, ti chiedo di aiutarci a ricostruire quali, secondo l'accusa, sono le responsabilità. Di Cragnotti è abbastanza chiaro, insomma, era il capo azienda, ma di Cesare Geronzi, che adesso è presidente dei Generali. Sì, e le responsabilità di Geronzi sono legate al fatto che era all'epoca presidente della Banca di Roma, cioè l'istituto di credito che ha garantito al gruppo guidato da Cragnotti, al gruppo Cirio, il 60% dei finanziamenti bancari totali ricevuti dal gruppo stesso. E secondo l'accusa, la Banca di Roma e quindi anche Geronzi e i funzionari di Banca di Roma che seguivano la pratica Cirio erano consapevoli dello stato di dissesto del gruppo fin dal 1999. Quindi secondo i PM le obbligazioni che poi sono andate in default a novembre del 2002, le obbligazioni per 1 miliardo e 125 milioni di euro, non dovevano essere emesse, furono emesse sempre secondo l'accusa in base ad un progetto perseguito dalla Banca di Roma e da altri istituti di credito, però soprattutto dalla Banca di Roma e da Cragnotti, un progetto che era volto appunto a ricavare liquidità dal mercato, liquidità da poi indirizzare in parte alla Cragnotti & Partners, cioè alla controllante del gruppo Cirio, e in parte a ripianare i crediti e i debiti che il gruppo Cirio aveva nei confronti delle banche. E secondo i PM 500 milioni di euro del miliardo e 125 milioni di euro che furono emessi in bond furono destinati appunto a ripianare i debiti del gruppo nei confronti delle banche. Allora, in particolare 300 milioni sarebbero andati alla Banca di Roma. Ok, chiarissimo. Cesare Geronzi dice di confidare in una decisione positiva dei giudici nel processo, questo è quel che viene diffuso e quanto si apprende da fonti vicine appunto alla presidenza delle Generali. I difensori di Cesare Geronzi, gli avvocati Ennio Amodio e Paola Severino, si dicono certi che i giudici sapranno andare al di là delle implausibili presunzioni contenute in una requisitoria generica e immotivata. Queste le parole degli avvocati. Tra le altre richieste dell'accusa, oltre praticamente a tutta la famiglia Cragnotti, per il genero sono stati chiesti 12 anni, per i figli Elisabetta e Andrea 8 e per l'altro 6, per l'altro Massimo 6, la moglie Flora sono stati chiesti 6 anni, poi c'è una richiesta di condanna anche per un ex dirigente della Banca di Roma, Antonio Nottola, e poi ritroviamo un nome che ci siamo abituati a conoscere anche in anni un po' più recenti, che è Giampiero Fiorani. E qua l'accusa è più o meno la stessa di Geronzi? Sì, è più o meno la stessa. Ovviamente l'entità delle somme che secondo, perché l'accusa è quella di bancarotta per distrazione, cioè parte delle somme del gruppo Cirio sarebbero state distratte, cioè appunto veicolate verso le società controllanti del gruppo stesso, che poi ne avrebbero girato una parte alle banche per consentire loro di rientrare dei crediti che vantavano nei confronti del gruppo Cirio. E per quanto riguarda Fiorani, lui è indagato in quanto, cioè è imputato in quanto ex amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi. Il capo di accusa si riferisce a due episodi in particolare. Uno ad un cofinanziamento nei confronti del gruppo Cirio con la Banca di Roma, cofinanziamento rispetto al quale poi una somma pari a 200 miliardi di lire sarebbe stata veicolata verso una società lussemburghese facente capo sempre alla Cragnotti & Partners, che poi avrebbe provveduto a girare 100 miliardi di lire alla Banca di Roma e 50 miliardi alla Banca Popolare di Lodi, appunto per rientrare di questa esposizione. E poi l'altro capo d'accusa si riferisce sempre all'emissione dei bond Cirio. Secondo i PM una quota del ricavato dall'emissione dei bond sarebbe stata destinata appunto a ripianare i debiti nei confronti anche della Banca Popolare di Lodi. Della Banca Popolare di Lodi. Allora Domenico, ti chiedo di restare un attimo con noi, adesso c'è la viabilità, io un altro paio di domande per te, a partire da quella sui risarcimenti, che è l'altro tema che ci interessa, perché ci accennavi poco fa che arriveranno tra poco le richieste, e poi la domanda di Simone che ci scrive da Bologna al 349-238-6666 e ci chiede: dov'è Cragnotti? Non so se lo sai, te lo chiediamo dopo. Allora, Domenico Lusi di Radio Corriere Sole 24 Ore, ce la facciamo a rispondere alla domanda di Simone da Bologna, cioè ci chiede se sì. Cragnotti è in carcere oppure no? No, non è in carcere, lui era stato arrestato nel 2004, febbraio 2004, ma no, adesso è libero e anzi lui ha segue regolarmente tutte quante le udienze del processo, anche oggi era in aula, ma come libero cittadino. Ecco, per quanto riguarda i risarcimenti, ci dicevi che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ci sono i prossimi passi dell'udienza, sono proprio le richieste di risarcimento per quanto riguarda il crack. L'ammontare... Sì, arriveranno venerdì e per quanto riguarda l'ammontare ancora non è stato definito. Diciamo che in base a quello che è emerso finora nel processo, i consulenti della parte civile avevano quantificato il danno derivante dall'emissione dei bond Cirio nei confronti degli obbligazionisti in 637 milioni di euro, a cui poi secondo l'accusa andrebbero aggiunti altri 680 milioni per una serie di operazioni infragruppo. Che sarebbero state volte appunto a distrarre i fondi ricavati dall'emissione dei bond. Quindi al momento l'unica cifra che è stata fatta durante il processo da parte delle parti civili è stata appunto di 640 milioni di euro circa, però dobbiamo aspettare venerdì per avere la quantificazione totale dell'importo. E quindi aspetteremo venerdì e poi aspetteremo maggio per avere la sentenza. Grazie, grazie a Domenico Lusi, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi. E noi cambiamo argomento adesso e parliamo di industria. Si apre oggi la ventottesima edizione di Samoter, che è il Salone Internazionale Triennale delle Macchine Movimento Terra da Cantiere e per l'Edilizia, che dura fino al 6 marzo a Verona. 100.000 i visitatori attesi, 900 espositori, di cui il 30% esteri provenienti da 36 paesi. È un settore interessante anche per misurare qual è l'andamento dell'economia, insomma, perché chiaramente, dato che si parla di macchine appunto anche da cantiere e per l'edilizia, insomma, è evidente che è una buona misura. Allora, saluto Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere. Buonasera Mantovani. Buonasera. E buonasera da Medeo Esposito, presidente dell'associazione di settore Cantier Macchine. Buonasera Esposito. Buonasera. Allora, inizierei proprio da lei, Esposito, chiedendole un quadro generale della chiusura di questo 2010 e che cosa vi attendete per il 2011. Guardi, buonasera intanto ai radioascoltatori. 2010 è stato un anno molto difficile per il nostro settore, ha seguito già un 2009 che ci aveva visto soffrire, quindi per darle un'idea, oggi nel 2010 abbiamo lavorato su una domanda che si è ridotta del 50% e oltre rispetto a quella che avevamo avuto nel 2007, quindi stiamo parlando di un mercato che si è dimezzato. Quindi E siamo tutti qui in attesa di capire come questo 2011 si muove e aspettiamo questo, diciamo, le giornate del Samoter saranno un pochino più chiare per farci capire come vivremo questo 2011, anche se le premesse devo dire, non sono molto incoraggianti. Anche se secondo i dati dell'ANCE nel 2010 nel nostro paese si sono attivati investimenti per 136 miliardi di euro, giro d'affari complessivo indotto di filiera di 325 miliardi, Mantovani questo in realtà potrebbe far ben sperare, ammesso poi che questi soldi, questi investimenti che poi sono anche in infrastrutture naturalmente, di questo si parla, anche in infrastrutture pubbliche poi si attivino veramente, perché poi è sempre questo un po' il problema, Mantovani. Beh, questo è uno snodo che è stato trattato direi anche stamattina all'apertura del Samoter, e uno dei temi è proprio la lentezza a volte con cui si procede poi nell'affidamento e nella realizzazione dei lavori. Molto spesso si procede a degli stanziamenti e non si riesce ad arrivare alla partenza vera delle opere, e questo credo che sia uno dei temi sui quali anche le istituzioni, il governo, le regioni devono dare più garanzie al settore. E questo è un punto. Io ritornerei da Amedeo Esposito, che per il consueto dato di raffronto con l'Europa, se vogliamo, o con il resto del mondo, che spesso tende ad essere impietoso, perché in Italia solo l'8%, io non so se questo sia solo pessimismo, però fatto sta che in Italia solo l'8% delle imprese del settore prevede un tasso di crescita sopra il 10% per i prossimi 6 mesi. A fronte di oltre il 30 in Francia e Germania. È un segnale da tenere sotto controllo? Questo è purtroppo è la realtà, non è un segnale, questa è la realtà. Oggi, diciamo, se lei domandasse alla maggioranza dei nostri operatori, delle nostre aziende associate, cosa si aspettano da questo 2011, molti le risponderebbero che se va come il 2010 sono contenti, perché c'è una preoccupazione diffusa che questo settore possa rallentare ancora di più, e questo è una cosa drammatica. Prima Mantovani parlava di semplificazione, questo è uno dei più grossi problemi che attanaglia oggi questo nostro mercato. Oggi siamo stati in fiera e il ministro dei lavori pubblici ha parlato di... Sentiamo rumori di macchine in movimento terra, suppongo. Io parlo dal campo, questo è il rumore del campo, sono ancora in fiera e si stanno muovendo delle cose, mi dispiace. Prego, ma si figuri, ci diceva di Matteoli. Sì, Matteoli che diciamo ovviamente mi sarei aspettato da Matteoli di fronte agli operatori del settore delle parole più incoraggianti, dei fatti, delle cose, delle promesse più concrete, purtroppo è stato molto generico, ecco l'unica cosa positiva che ha portato, ha detto ci impegniamo a vedere di semplificare le procedure perché ancora oggi ci vogliono 10 anni perché un'opera da quando viene pensata viene poi fatta o anche di più, e quindi diciamo questa è la situazione, purtroppo non ci sono soldi, quei pochi soldi che ci sono non vengono spesi bene, si fermano nelle maglie dell'amministrazione pubblica. Cioè più che non essere spesi bene non vengono spesi affatto. Non vengono spesi affatto, bravo, non vengono spesi affatto. Chiarissimo. Ci sembra di capire da quel che è emerso anche dal convegno di questa mattina, Mantovani, che come ne stiamo parlando spessissimo in questo periodo per i più svariati settori, e quindi naturalmente anche per questo, le migliori prospettive vengono dai mitici BRIC, Brasile, Russia, India e Cina. C'è stato un vero e proprio, come dire, cambiamento globale del mercato, perché se fino a 6 anni fa la domanda mondiale del settore construction equipment era detenuta in prevalenza dal Nord America con una quota del 28%, seguita dall'Europa con il 20%, e poi c'erano la Cina al 18%, l'India al 3%, giusto per dare un'idea di alcuni grandi attori. Oggi proprio la Cina fa da motore trainante del settore, condizionandone anche fortemente gli andamenti, perché la Cina rappresenta attualmente il 43% della domanda, l'Europa solo il 15%, addirittura il Nord America scende al 13% e l'India è cresciuta, non tantissimo, ma è cresciuta al 5%. Quindi parliamo di un mercato che è straordinariamente modificato nel suo scenario e che anche per le aziende, sia per le aziende costruttrici di macchine, ma anche per chi fa componentistica, dovranno purtroppo fortemente impegnarsi a sviluppare il rapporto con questi nuovi mercati. Mercati che stanno crescendo anche nell'ambito europeo, perché poi ci sono movimenti diversi sui diversi paesi europei, ma non solo, l'est europeo sta crescendo di più in questo comparto, la stessa Russia rappresenta uno mercato di sbocco interessante. Quindi mi sembra di capire che praticamente l'unico che va male è l'Italia, sostanzialmente è un pezzo dell'Europa occidentale. Ho una domanda. Sentivo oggi qualche commento che, come dire, c'è una fascia di paesi che quelli che citavamo prima, che sicuramente navigano a doppia cifra almeno. Poi ci sono alcuni paesi europei che stanno lentamente riprendendo. E altri paesi che viaggiano su frazionali. Allora, brevissimamente Esposito, ma a questo punto val davvero la pena di avere un mercato interno per le aziende italiane? Cioè non conviene buttarsi completamente sull'export? Ma diciamo che l'Italia, partiamo dal presupposto che l'Italia ha un gap infrastrutturale che è spaventoso. Noi parliamo di competitività di sistema, parliamo di competitività del paese. Se si guardano le classifiche dove siamo scesi a livello di competitività, non siamo più neanche nella prima pagina. Le chiedo brevità, Esposito, che siamo quasi in chiusura. Quindi io dico, noi diciamo dobbiamo, come paese dobbiamo reagire a questa cosa. Certo, le aziende più strutturate trovano sfogo all'estero, ma questo è la minoranza delle imprese italiane. È la minoranza delle imprese italiane. Le altre hanno bisogno del mercato interno. Grazie a Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere. Grazie ad Amedeo Esposito, presidente dell'associazione di settore Cantier Macchine. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia. Da Simone Spezia una buona serata. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.